in primo piano. Buongiorno a tutti, sono Lionello Mancini e siamo insieme anche questa mattina per l'ultimo giorno dell'anno e per l'ultimo giorno della mia rassegna stampa. A gennaio tornerà Alessandro Milan. Vorrei iniziare questa mattina la lettura dalla Repubblica perché ieri ho dedicato molto tempo a leggere il racconto. Chi ha ascoltato la rassegna stampa lo ricorderà, perché ci sono stati almeno 3, 4, 5 minuti di rassegna stampa solo su quell'episodio. Il racconto di questo Vogelmann, che su Repubblica ha raccontato l'episodio di un giovane senza braccia che i ferrovieri hanno prima volevano multare, poi hanno fatto scendere dal treno perché era senza biglietto, aveva i soldi del biglietto ma non quelli per la multa. Un'applicazione molto rigida del regolamento ha portato, nonostante le proteste dei passeggeri, a far scendere questo ragazzo. Sono intervenuti anche i poliziotti. Insomma, un racconto molto lungo e dettagliato. Oggi c'è un seguito, è solo su Repubblica, ma il titolo è: le FS, le ferrovie, chiedono scusa al disabile, ma i controllori dicono le ferrovie lo hanno aiutato. Trenitalia contesta la versione di Vogelmann, 2000 mail a Repubblica.it. Quindi è un episodio che non ha colpito solo me, evidentemente, ma anche molti lettori del quotidiano. La versione, va detto, delle ferrovie è leggermente diversa. Dicono che appunto i controllori hanno aiutato il ragazzo, non l'hanno fatto scendere. In realtà la polizia, anche se non ufficialmente, dice che è stato fatto scendere, come raccontava ieri Vogelmann su Repubblica, ma poi è stato fatto risalire ed è stato fatto proseguire. Quindi insomma una vicenda che per qualche verso si è chiusa bene, ma per qualche altro denuncia comunque quello che il racconto di Repubblica di ieri intendeva denunciare. Proseguiamo quindi con Repubblica, che dedica largo spazio a una notizia che in realtà hanno tutti, delegata al clima di insicurezza che regna dopo l'attentato, il fallito attentato sull'aereo tra l'Olanda e l'America. Infatti a pagina 4 Repubblica ci dice: via libera ai body scanner negli aeroporti. A Schiphol, che è per l'appunto l'aeroporto olandese, sarà operativo in 3 settimane. La UE si prepara per l'ok in tutta Europa. Il body scanner è quella macchina che perfettamente delinea il corpo umano sotto i vestiti, segnalando ogni qualunque cosa di estraneo ci sia addosso, quindi compreso l'esplosivo nascosto. Repubblica, che dicevo, dedica una pagina a questo tema perché sicuramente interessa a tutte le persone che viaggiano. Mi pare interessante anche leggere alcuni passi dell'intervista di Vito Riggio, che è il presidente dell'ENAC, quindi l'ente che controlla i voli nel nostro paese. Dice: in Italia ne basterebbero 10 di macchinari body scanner per controllare i voli a rischio. E l'intervista dice: l'Italia è pronta a introdurre gli scanner corporali, anche se l'augurio è che una simile decisione, spiega il presidente dell'ENAC Vito Riggio, venga preso solo a livello europeo e non nazionale. Come funzionano i controlli dei passeggeri nei nostri aeroporti, presidente Riggio? Gli chiede l'intervistatore, che dalla sigla dovrebbe essere Ettore Livini. Oggi ci affidiamo ai macchinari a controllo radiogeno, a quelli corporali del personale e ai cani fiutabomba, uno strumento in cui ho molta fiducia. L'ipotesi di introdurre i body scanner è già stata presa in esame qualche tempo fa, ma poi si era soprasseduto per le riserve in tema di privacy. Ancora più avanti gli chiede Livini: è possibile garantire al 100% la sicurezza di chi vola? Ci sono in arrivo importanti innovazioni tecnologiche, risponde Riggio, anche in fase sperimentale, ma oggi non mi pare ci sia l'oggetto magico. La prevenzione si fa combinando vari elementi, non con un singolo strumento. Il 99,9% dei passeggeri che passano in aeroporto sono brave persone e noi oggi dobbiamo esaminare tutti con la stessa accuratezza. L'obiettivo è riuscire ad avere segnalazioni più precise da parte dell'intelligence per isolare insospetti e sottoporli a controlli molto più accurati. Questo quindi è Vito Riggio dell'ENAC. La sua intervista e il tema del body scanner solleva due questioni molto dibattute in questi momenti. Uno è il rapporto tra la sicurezza e la privacy delle persone. Pare insomma che il punto di equilibrio sia molto difficile da raggiungere. Un po' più di sicurezza equivale a un po' meno di privacy. L'altro problema è sono le segnalazioni dell'intelligence, perché obiettivamente, come sottolinea anche Riggio, il 99,9% delle persone che volano sono brave persone normali. Sottoporre tutti a questi controlli, insomma, forse è una cosa eccessiva. Servono le segnalazioni dell'intelligence, proprio quello su cui pare che l'America abbia mancato di nuovo a 9 anni dalle Torri Gemelle, quando non ha ascoltato le segnalazioni che potevano prevenire quel tentativo di attentato sul volo per Detroit. Ancora la Repubblica, a pagina 17, c'è questa buffa notizia di un fumatore che fa ritardare il treno più veloce del mondo, un treno su cui è vietatissimo fumare, ma vietatissimo, non so, sarà vietato come sui treni da noi, però un signore si è acceso comunque una sigaretta di nascosto e il treno è rimasto fermo per 2 ore e mezza perché i segnali d'allarme sono stati tali che ne hanno impedito la ripartenza per 2 ore e mezza. L'agenzia di stampa Nuova Cina ha detto che il servizio di sicurezza del treno non è riuscito a catturare il fumatore, dileguatosi appena è scattato l'allarme. Sul treno ad alta velocità Wan Guangzhou è severamente proibito fumare, severamente proibito. Avanti ancora, ecco, come diceva pagina 20-21, ci sono i resoconti e il seguito e lo scambio di accuse sulla vicenda del giovane senza braccia in treno. Quindi le ferrovie lo abbiamo aiutato, non è vero, dicono i testimoni, ed è lite sulla vicenda dell'Eurostar. L'accusa dei testimoni: personale arrogante, altri passeggeri, nessuno di noi indifferente. Infatti pare che poi alla fine una parte del biglietto o della multa, insomma dei soldi necessari, li avesse poi pagati addirittura un ferroviere che non era in servizio ma che ha avuto questa iniziativa. A pagina 25 di Repubblica, malato di SLA, muore a Treviso, non voleva più essere curato, con il biotestamento aveva rifiutato di sottoporsi alla tracheotomia. Questa è una vicenda che ci ricorda la storia anche di Eluana Englaro, ma anche di altri, e parla di Renzo Betteti, un malato trevigiano di sclerosi laterale amiotrofica, appunto la SLA, che dice: non finirò come una pianta in un vaso di fiori che non può parlare ma il suo cervello vive. Così aveva stilato il suo testamento biologico, e dice Betteti: le disposizioni sul suo fine vita, hanno spiegato i familiari, Betteti le aveva formalizzate nel novembre scorso proprio per metterle al riparo da eventuali responsabilità sul percorso che l'ha condotto alla morte. La malattia non lo faceva più respirare, era necessaria una tracheotomia, ma lui non l'ha voluta. Così, stroncato da una crisi respiratoria, è morto nella sua casa lunedì scorso. Ecco, questo è una vicenda che riguarda appunto la vita di tante persone che sono malate. A pagina 27, per tornare un po' sul clima di fine anno, la ricetta di Parigi contro gli incidenti stradali del dopo discoteca. Qual è la ricetta? I locali chiuderanno alle 7. Contro gli incidenti, ballate fino all'alba. Questo è il decreto che ha pensato di fare il governo parigino per evitare che le persone in preda ai fumi dell'alcol viaggino di notte e provochino incidenti o si facciano male o facciano male degli altri. A pagina 5 della cronaca milanese di Repubblica, è una notizia locale evidentemente, però introduce a un tema più generale. Troviamo la notizia: via Aniasi, una via intitolata ad Aniasi, prima del giardino Craxi. Il PD: riscrivono la storia sulle targhe, Rosati, così aumentano le divisioni. Aniasi è uno storico sindaco socialista di Milano, e questa faccenda della via si inserisce nel dibattito che sicuramente per qualcuno sarà stato appassionante, che è tuttora in corso, sulla via da dedicare a Craxi nel decennale della sua morte, un dibattito politico che troviamo anche su altri giornali, dove Craxi è più o meno un pretesto per ridiscutere invece quello che accadde 15-16 anni fa con l'inchiesta Mani Pulite, con Tangentopoli, quindi l'origine di questo periodo, l'origine politico di questo periodo storico che stiamo vivendo adesso, e quindi il decennale della morte di Craxi viene preso in questo modo. A pagina 11, e passiamo al Corriere della Sera, troviamo infatti: Craxi alla celebrazione atteso anche il premier Frattini, l'attuale ministro degli esteri, la bella idea di Milano non ridia voce alla canaglia contro di lui. Questo il ministro degli esteri Frattini. E vi segnalo, sono partito su questa cosa delle vie perché mi ha colpito, dato che mentre si discute di Craxi, Milano nel suo particolare ne chiede una per Agnasi, e il Corriere della Sera invece segnala un altro problema legato alla intestazione di una via, ed è un articolo di Gianantonio Stella, pagina 21 del Corriere della Sera, e vi consiglio di leggerlo, sicuramente i lettori del Corriere lo vedranno perché è una pagina intera, e il titolo è "Neppure una storia per l'uomo che perse, neppure una via per l'uomo che perse 10 figli ad Auschwitz. Settimio Calò fu l'unico a salvarsi. Ora Roma lo ricordi. Nel 1943 i nazisti prelevarono i figli, la moglie e un nipote, tutti uccisi." L'articolo è molto lungo, quindi vi leggo solamente le sintesi che sono nei sommarietti. Il 16 ottobre 43 alle 5:30 del mattino ha inizio il rastrellamento del ghetto di Roma. Solo in questo quartiere 1022 ebrei finiranno in mano ai nazisti per essere caricati su 18 vagoni diretti ad Auschwitz. Torneranno in 16. Degli oltre 200 bambini deportati nessuno è sopravvissuto. Settimio Calò, 45 anni, merciaio ambulante, era uscito di casa sua al ghetto al mattino presto per andare a comprare le sigarette, mettendosi in fila alla tabaccheria di Monte Savello. Al suo rientro nell'appartamento al numero 49 del portico d'Ottavia non c'è più nessuno. La moglie Clelia Frascati, sua coetanea, i 10 figli, e qui c'è l'elenco con tutte le età, il più grande 22 anni, il più piccolo 6 mesi, e il nipotino Settimio Caviglia, 12 anni, sono stati tutti portati via dai tedeschi. Il 19 ottobre la madre del piccolo Settimio lo vedrà su un treno in partenza per la Polonia, alla stazione Tiburtina. Morirà insieme alla zia e a tutti i cugini ad Auschwitz il 23 ottobre, una settimana dopo la razzia. Questo è quello che ricorda Gianantonio Stella, e penso che De Bortoli abbia fatto questa scelta forse non a caso in tema di vie, perché effettivamente ciò che è accaduto a Settimio Calò tanti anni fa è qualcosa che va ricordato, che merita di essere ricordato sicuramente. Ancora dalla prima pagina del Corriere, e cominciamo a leggere qualche brano di editoriale, Sergio Romano ci presenta il bilancio di un decennio orribile, addio anni zero senza rimpianti. E l'immagine del tunnel comincia così, Sergio Romano dice, sarà scontata, però insomma ci sta perché questo tunnel, insomma, noi ci siamo dentro, però a un certo punto dice, però forse siamo prossimi alla fine del tunnel, vi saranno altre guerre, altri attentati terroristici e altre operazioni militari, forse addirittura nei prossimi giorni, ma lo stile degli Stati Uniti è cambiato. L'Europa ha finalmente una Costituzione. La crisi del credito ha ripulito almeno in parte le stalle della finanza internazionale e molte industrie sanno che non è più possibile tornare alle dimensioni di un tempo. So che la conferenza di Copenaghen viene considerata da molti un insuccesso, ma tra la situazione degli anni scorsi, quando alcuni tra i maggiori paesi inquinanti rifiutavano qualsiasi impegno, e quella di oggi, corre una bella differenza. So, scrive ancora Sergio Romano sulla prima pagina del Corriere della Sera, so che il G20 non sarà mai probabilmente il governo mondiale dell'economia, ma sarà pur sempre meglio di un G8 che rappresentava soltanto i vecchi proprietari. So che gli Stati Uniti continueranno a considerarsi superpotenza, ma l'America di Obama, soprattutto dopo l'approvazione della riforma sanitaria, assomiglierà un po' di più all'Europa. E poi prosegue all'interno. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, Lady Editoria e i figli rubati alle vittime, Siamo in Argentina, l'editoria è la proprietaria del Clarín, il maggior quotidiano argentino. Ebbene, Marcella e Felipe, figli adottivi di Ernestina Carrera de Noble, proprietaria del Clarín, saranno sottoposti al test del DNA per scoprire se sono figli di vittime della dittatura. È la storia di uno dei tanti desaparecidos più volte denunciati dalle madri e dalle nonne di Plaza de Mayo, cioè bambini che venivano fatti nascere da donne prigioniere e poi le madri venivano uccise e i figli dati in adozione a ufficiali dell'esercito o ad altre persone. Vediamo se è vero. E qui la notizia è che da alcuni anni, forse io non sapevo questa notizia, quindi... il Parlamento ha reso obbligatorio in Argentina la prova del DNA anche contro il volere degli interessati, come in questo caso. Quindi, dopo 7 anni, il test stabilirà se i genitori erano desaparecidos. In primo piano. Eccoci di nuovo insieme, proseguiamo con il Corriere della Sera, restiamo ancora all'estero. C'è una cronaca di Sepide Parsi. Il cognome in Italia è noto come un Emanuele Parsi, insomma un professore universitario che si occupa di questioni internazionali, quindi non so se ci sia qualche legame. Nella rubrica intitolata Diario da Teheran, Sepide Parsi descrive in una maniera molto efficace e che alla lettura, io ovviamente ve ne leggerò solo alcuni brani, fa molto ricordare le manifestazioni dei tempi del fascismo qui in Italia, quelle manifestazioni di regime, diciamo. Descrive in maniera molto efficace la manifestazione governativa convocata appunto da Ahmadinejad contro quelli che contestano, contro i riformatori, contro i ribelli. Quindi il titolo di apertura della pagina è Ahmadinejad ai ribelli, tra virgolette, il pentimento non basta. Voci di oppositori in fuga, manifestazioni filogovernative, l'ONU, sconvolti dalle violenze. Allora, questa cronaca di Sepide Parsi dice: Neda recitava. Neda, vi ricordo, è quella, la prima forse ragazza, una delle prime vittime di queste contestazioni, di queste manifestazioni in Iran, e la sua morte fu ripresa praticamente in diretta e fece il giro del mondo, ve la ricorderete, stesa sull'asfalto con il sangue che si allargava, una macchia di sangue che si allargava su di lei. Ecco, Neda recitava. Quello su Neda era solo un filmino studiato a tavolino. È questa la grande lezione che ho imparato oggi alla grande manifestazione pro regime in Piazza della Rivoluzione. Da stamani la TV di Stato ogni 10 minuti avvisava gli spettatori dei 6 itinerari che per arrivare alla meta in Piazza Enkelab e trasmetteva le vecchie parole di Khomeini sul potere della maggioranza e su quanto l'Islam sia desiderato dalla gente dell'Islam. La piazza era ancora vuota al mio arrivo, ma gremita di basci, motociclisti, forze di polizia e personaggi in borghese di dubbia provenienza. Va avanti dicendo che avevano in mano i volantini distribuiti in formato A3, insomma una descrizione molto precisa, con sopra gli slogan da gridare e anche le fotografie dei riformisti da maledire, da su cui chiedere, dice, giustizia, vendetta e impiccagione. Dice ancora Sepide Parsi: erano tanti, lo ammetto, ma erano tantissime anche le macchine fotografiche, le telecamere giganti e i controllori sui tetti dei palazzi. Tanta la tecnologia in aiuto a una dimostrazione necessaria prima di tutto alla loro stessa gente, forse per tranquillizzarla o meglio per rincuorarla. E l'articolo finisce così. Dicevo di Neda, in piazza venivano distribuiti almeno 2 volantini formato A3, tutti ne avevano una copia in mano o erano intenti a leggerla, era firmata dall'associazione studentesca socioculturale Meigat dell'Università di Teheran. Questi studenti della grande Università di Teheran ritengono che la morte di Neda sia tutta una montatura. Vedete? una volta finito il filmino, e qui sono le virgolette, quindi è il contenuto del volantino, i suoi collaboratori la prendono, la buttano in una macchina e se ne vanno. Neda si alza e si siede in auto tranquillamente, ma a quel punto i suoi colleghi si accorgono di aver bisogno anche di un corpo per testimoniare il fatto e quindi, a sua insaputa, la uccidono. Questa è la versione del regime della morte di questa ragazza che tutto il mondo ha visto in diretta. A pagina 22-23 il Corriere della Sera, come molti altri giornali, stila le classifiche di fine anno, oggi è comunque il 31 dicembre, quindi da Milena Gabanelli a Saviano, da Chris Martin a Eastwood, personaggi e opere da ricordare, i 10 del decennio. Allora, velocemente, il primo film italiano risulta La meglio gioventù, film straniero Mystic River, le trasmissioni TV La migliore, Report, Internet e dintorni Wikipedia, l'enciclopedia diciamo della rete, come videogiochi Pro Evolution, questo non lo conosco, Pop Rock, Dente, Pop in italiano, Pop Rock Mondo, Coldplay, musica classica Beethoven, il teatro Faust, i libri Roberto Saviano. Ecco, con questo lasciamo anche il Corriere della Sera e veniamo al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore in prima pagina ha questo titolo: Tremonti, uomo del 2009. I nomi e i marchi che hanno difeso l'Italia della grande crisi. Il Sole 24 Ore sceglie i protagonisti e le aziende di eccellenza dell'anno. Primo risulta il ministro dell'economia. E ci sono dentro diverse pagine dedicate a diversi aspetti su cui sono state fatte delle classifiche, che vi invito senz'altro ad andare a vedere, poi velocemente, se abbiamo il tempo, vi indicherò alcuni di questi punti, ma vorrei invece leggere alcuni passaggi dell'editoriale del direttore Gianni Riotta, un brindisi ai migliori anni della nostra vita. E dopo aver ricordato che alla fine di ogni anno, insomma, si parla sempre dell'anno trascorso come quello dello scampato pericolo, dice Riotta che nello scorso Capodanno la politica si preparava per cortei in rivolta per strada, le aziende ragionavano di quando chiudere i battenti, i sindacati contavano i disoccupati, Nouriel Roubini, il dottor Catastrofe, un economista americano, era il guru più popolare nel 2008 con il cuore al 1929. La storia però, scrive Riotta sulla prima pagina del Sole 24 Ore, la storia però non si ripete mai. Neppure i più fervidi ottimisti, Dio li benedica, si aspettavano di essere dove siamo, per tempestosa che la stagione ancora sia. Il sistema non è collassato, la Cina non ha mandato gli USA in bancarotta, le banche non si sono suicidate, il sistema centrale, da Bernanke a Draghi, ha retto. La lezione della Grande Depressione, che proprio l'uomo della Federal Reserve ha studiato per tutta la vita, ha insegnato a stati, istituzioni, finanzieri e risparmiatori come reagire insieme. Tra errori, trucchi, egoismi, meschinità e tragedie personali per tanti, la risposta coordinata c'è stata. Il mondo non è morto, ma dire che goda adesso di ottima salute non è ottimista, è ingenuo. E vorrei leggervi anche la chiusura del suo articolo, dell'articolo del direttore del Sole 24 Ore, che conclude così: date dunque torto al pessimisti di Capodanno, il buio non prevarrà, ma la luce ha bisogno di verità, giustizia e forza per vincere. Con la tolleranza sarà questa la base di un governo mondiale capace di fare del prossimo decennio una semina migliore di quanto non siamo riusciti in quello che si chiude. Tocca rimetterci tutti al lavoro con umiltà, buona volontà e passione serena. Auguri a voi dunque, care lettrici e lettori, che di questi sentimenti date prova ogni giorno. Questo è il direttore del Sole 24 Ore. A pagina 5 dello stesso quotidiano, Alessandro Merli, un editorialista, ricorda con un articolo sotto il titolo Gli occhi del mondo puntati sull'Africa, ricorda qualcosa che troviamo anche in altri giornali, e cioè perché gli occhi puntati sull'Africa? Dice sì, nel 2010 gli occhi saranno puntati sull'Africa, che ospita il suo mondiale di calcio e che spera di vincerlo con una delle sue nazionali emergenti. In Sudafrica giocheranno anche 6 delle squadre dei paesi del G7, unico escluso il Canada, e sarebbe opportuno che l'appuntamento calcistico ricordasse ai loro governi che poco meno di 5 anni fa di impegni con l'Africa per il 2010 ne avevano preso un altro, di aiutarla nella lotta alla povertà. Prosegue l'articolo di Merli, analizzando questi impegni presi e non rispettati, e conclude così: la presidenza italiana del G8 è stato l'altro fiasco dell'anno, secondo le organizzazioni umanitarie attive in Africa. Con la finanziaria, stima ActionAid, gli aiuti allo sviluppo si allontaneranno invece di avvicinarsi. E qui riporto una serie di percentuali in relazione al PIL. Dice: l'obiettivo europeo dello 0,51 del PIL è per il 2010, e invece dallo 0,22 del 2008 allo 0,17 del 2009 allo 0,15 del 2010. L'annuncio di Berlusconi all'Aquila sulla sicurezza alimentare e sul pagamento degli arretrati per 130 milioni di euro al Fondo Globale per AIDS, TBC e Malaria non ha avuto seguito. I grandi sono stati inadempienti anche sulle intenzioni di facilitare i commerci per i paesi africani. Intanto in Africa il vuoto lasciato dalle promesse mancate dell'Occidente viene riempito dalla Cina, i cui abbondanti capitali vanno a caccia grossa di materie prime. Questo dunque lo scenario che dipinge Alessandro Merli sul Sole 24 Ore. Tra le pagine che dicevo di riassunto dell'anno vorrei citarvi questa a pagina 12 del Sole 24 Ore, l'annus horribilis dei diritti umani nel mondo, dalla Cina alla Russia, dal Vietnam a Myanmar, 10 storie di uomini e donne privati della libertà. E quindi appunto qui abbiamo già detto tutto, i paesi comunque citati, non vi cito i singoli casi, come violazione dei diritti umani sono Gaza, tra israeliani e palestinesi il conflitto diventa barbarie, lo Sri Lanka, e il Myanmar, dove San Suu Kyi in carcere, vi ricordate il premio Nobel per la pace che è agli arresti domiciliari da 10 anni e più, Iran, Vietnam, Cina, Russia, Cuba, Guinea, Afghanistan. Questa è la parte, diciamo, che tutti fanno bene a ricordare. A pagina 15 ci sono invece tutte le prime volte dell'anno che va via, e quindi si parla di, anche qui ci sono 14 spunti: medicina, astronomia, etica, diritti umani. I fatti del 2009 hanno segnato per sempre una svolta. Bene, lasciamo anche il Sole 24 Ore, vi cito solo rapidamente, abbiamo quasi terminato il nostro tempo, la Stampa, che come altri giornali apre con una notizia che avrà sicuramente sviluppi: Obama, Yemen nel mirino, il governo di Sanaa autorizza il sorvolo con droni e il lancio di missili cruise, l'ONU sconvolti dalle violenze in Iran, Ahmadinejad pentirsi non basterà. Questo dunque il mondo che salutiamo il 31 dicembre del 2009. Io ringrazio Paolo Corleone in regia, saluto tutti voi, vi auguro un buon 2010 e a risentirci l'anno prossimo.